Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 2 luglio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro ed Uradio TV. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla cura e alla conduzione di questo programma, con Antonella Cortese, sempre qui con me. Buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti. Caterina, oggi è il 2 luglio. Che succede? Succede che se andate sulla piattaforma www.ideaginger.it e digitate Eduradio TV, potete sostenere il nostro progetto. Questo è il crowdfunding che durerà un mese fino alla fine di luglio. Ci aiuterete così a portare ancora le nostre voci all'interno del carcere durante i mesi estivi, il mese estivo più che altro, che sono quelli più duri per chi si trova in situazione di detenzione. Noi abbiamo cominciato dal 18 di gennaio insieme ad ASP Città di Bologna e anche altre tantissime associazioni che si occupano di teatro, cultura, volontariato, diritti, che insegnano anche operatori spirituali all'interno del carcere. Aiutateci a continuare questa nostra meravigliosa programmazione. Ma partiamo con le notizie. Allora, vi leggo una notizia da Il Riformista, a cura di Viviana Lanza. Se i magistrati vogliono capire cosa è la pena, si facciano un giro in cella. E questo è un virgolettato in realtà, perché così ha parlato il magistrato del Tribunale di Napoli, Nicola Graziano. Lui si è chiesto, ma quanto ne sanno di carcere i magistrati? Quanto conoscono a fondo il mondo in cui finiscono i condannati e molto spesso persino gli indagati, presunti innocenti, cittadini in attesa di giudizio? Quanti sono andati oltre la saletta dei colloqui per vedere con i propri occhi come si vive dietro le sbarre, nei luoghi della pena che secondo la Costituzione dovrebbero servire soprattutto alla responsabilizzazione dell'autore di un reato e sostenerlo nel processo di reinserimento sociale? Queste sono le domande che lui si è fatto e propone un tirocinio all'interno delle carceri che dovrebbe far parte del percorso formativo di ogni magistrato. Senti, e come ha iniziato lui questa esperienza da, diciamo, da infiltrato? Lui è iniziato nell'ottobre del 2014, quando ha ottenuto dal DAP il permesso di vivere da infiltrato nella struttura detentiva di Aversa. Lui sapeva che stava per fare veramente qualcosa di straordinario, che gli avrebbe segnato la vita, e lui l'ha fatto per esigenze, pensate, di studio e anche letterarie, ma è anche convinto che il tirocinio formativo all'interno degli istituti possa arricchire la formazione di un magistrato. E lui crede che sia un'esperienza molto utile, che può dare un valore importante, soprattutto quando si è all'inizio della carriera e magari si arriva un po' troppo giovani a funzioni che sono invece in realtà molto importanti e responsabilizzanti. Lui dice: il magistrato entra nella vita delle persone, per questo un tirocinio formativo sarebbe da riprendere, da incentivare. Anche la scorsa settimana, Caterina, ci avevi già raccontato che la Francia è sulla stessa linea, giusto o ricordo male? Sì, in Francia per esempio sono previsti stage penitenziari obbligatori per magistrati, per aspiranti magistrati, e propongono una settimana vissuta all'interno di una prigione assieme ad agenti di polizia penitenziaria, osservando con i propri occhi la realtà dietro le sbarre. Quindi vivere il carcere e non limitarsi o sentirne parlare dall'esterno è un'esperienza che cambia la vita. Come ha detto lo stesso Graziano, vivere 3 giorni nel carcere psichiatrico è stata un'esperienza che mi ha segnato. E tuttavia sottolinea che questo non deve condizionare, questo è importantissimo, l'esercizio della funzione del magistrato, perché un giudice deve applicare la legge e ne è soggetto. Però, osserva, aggiunge, se si riuscisse a portare avanti un'idea maggiore di consapevolezza e di conoscenza degli effetti e delle conseguenze di certe decisioni, sarebbe davvero molto interessante il percorso della formazione anche varcando la soglia del carcere. E io su questo proporrei a chi ci ascolta, specialmente dalle camere, dalle case circondariali, di scriverci cosa ne pensano. Se un magistrato entrasse un mese o 3 giorni in prigione, cosa ne penserebbero? Sarebbe veramente un valore aggiunto vedere una persona dall'esterno che vive la tua stessa condizione? Scriveteci, raccontateci, diteci anche che cosa ne pensate di negativo o di positivo, noi siamo qui. Grazie Caterina, mi sembra un'ottima idea. E intanto rimaniamo con Mick Jagger? Sì, con Mick Jagger e Rolling Stones, Streets of Love, pubblicata nel 2005, poi anche in un singolo, è un classico che riporta suoni e ritmi che hanno fatto la storia del gruppo, quindi una canzone bellissima, ascoltiamola. You broke my heart. the awful truth. It's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I E rieccoci, bentornati sempre sul nostro programma Liberi Dentro e Due Radio TV che fa da ponte tra carcere e città. Antonella, noi abbiamo sempre un animale del giorno al venerdì, è ormai diventata la nostra consuetudine perché pensiamo che anche quando magari si è in carcere, sapere un po' di scienze, un po' di nature, da natura e cose che ci circondano sia piacevole, vero? Sì, sì, infatti il venerdì diciamo è dedicato agli animali e la scorsa settimana abbiamo parlato del gabbiano, ma oggi ritorniamo a un animale un po' più grande, proprio fisicamente più grosso, e parliamo infatti delle grandi scimmie che vivono in Africa e che sono destinate a perdere fino a più del 90% dei propri habitat naturali, secondo quanto riporta un recente studio scientifico, purtroppo aggiungerei. E la ricerca pubblicata appunto sulla rivista Diversity and Distributions è stata condotta da scienziati di quasi 50 università, istituti di ricerca e organizzazioni per la conservazione e, tra le altre cose, prevede che metà del territorio che le scimmie non avranno più a loro disposizione si trova proprio nei parchi e nelle altre zone protette. E c'è da aggiungere che la sopravvivenza delle grandi scimmie africane come bonobo, scimpanzé e gorilla è già minacciata da tempo, e questo lo sapevamo, ma una serie di concause potrebbe mettere ancora più a rischio l'esistenza di queste specie entro 30 anni. E infatti dalla ricerca emerge che la netta diminuzione delle terre abitabili per queste scimmie sarà strettamente legata al riscaldamento climatico, alla distruzione di aree selvagge per estrarre minerali, legname e risorse alimentari ovviamente, ma anche alla crescita della popolazione umana. Allora, stiamo parlando in qualche modo di nostri grandi antenati, perché la scimmia è l'animale più simile all'uomo. Quali sono le grandi scimmie? Caterina, le grandi scimmie prima di tutto appartengono come l'uomo alla famiglia ominide. L'orangotango vive in Asia, tanto per chiarire proprio dove sono localizzati, e lo scimpanzé, il bonobo e il gorilla vivono in Africa. L'uomo abita ormai quasi ogni angolo del pianeta e rappresenta in effetti la minaccia più grave alla sopravvivenza di tutti questi animali, a causa della scarsa attenzione da noi prestata fino ad ora alla tutela della natura e di tutti gli esseri viventi. Scimpanzé e bonobo appartengono allo stesso genere Pan e si somigliano moltissimo. Lo scimpanzé che abitualmente conosciamo è conosciuto appunto con il nome scimpanzé comune Pan troglodites, mentre il bonobo Pan paniscus è anche detto pigmeo, gracile, nero, nano, anche se più o meno hanno la stessa corporatura. Le grandi scimmie giocano un ruolo fondamentale nel mantenere l'equilibrio degli ecosistemi nei quali vivono. Questo è molto importante da ribadire, perché nutrendosi di frutta, ad esempio, disperdono i semi di molte varietà di alberi nella foresta. E poi un'altra cosa molto interessante che li avvicina molto a noi è che mostrano abilità intellettuali che si pensava fossero esclusive degli esseri umani. Possono costruire strumenti rudimentali, come noi provano emozioni quali la gioia, il dolore, la paura, l'angoscia. Possono venire contagiati da tutte le malattie dell'uomo, eccetto il colera però, e allo stesso modo noi uomini possiamo prendere le loro malattie. Pensa, Caterina, che i nostri DNA differiscono di poco più dell'1% e dei gruppi sanguigni sono veramente compatibili, quindi uomo-scimmia. E a differenza dell'uomo, però, non riescono né a nuotare né hanno la lacrimazione, quindi non lacrimano. Per quanto riguarda la loro aspettativa di vita, e soprattutto dello scimpanzé nel suo ambiente naturale, è intorno ai 40-45 anni. Ma tornando proprio a bomba su quello che è l'introito della tua notizia, ovvero il problema climatico ambientale, questi cambiamenti climatici costringeranno in qualche modo le scimmie a una migrazione? In parte sicuramente, perché i cambiamenti climatici creeranno nuovi habitat adatti alle scimmie, ma per raggiungerli queste scimmie dovranno spostarsi. C'è un piccolo problema, che sono meno avvezze alla migrazione rispetto ad altre specie, perché si riproducono lentamente, hanno bassa densità di popolazione e anche diete alimentari specifiche. Certo, una certa migrazione ci sarà comunque, ovviamente, e un'azione chiave per evitare perdite di territori è garantire una connessione tra i luoghi in cui vivono le scimmie, creando nuove aree protette, facilmente raggiungibili le une dalle altre. Gli scienziati hanno anche affermato che in alcuni luoghi del continente viene già svolto un buon lavoro di conservazione. Ad esempio, lo sviluppo dell'agricoltura, delle miniere e dei collegamenti stradali e ferroviari del Gabon si è concentrato direttamente su aree già degradate, evitando di compromettere le foreste intatte e gli habitat di molti primati. Insomma, un'altra cosa da fare comunque sarebbe avere un atteggiamento consapevole da parte di tutti, proprio perché dobbiamo rendere questo mondo più sostenibile per noi e per gli animali che lo vivono. Verissimo, e rimaniamo sempre con la musica. Sì, rimaniamo con Fatoumata Diawara che ci saluta con l'ultimo brano dall'album Fenfo che si chiama Di Bibò. Eccovi, bentornati sul nostro programma Liberi Dentro Eduradio. Adesso abbiamo con noi una nuova ospite, lei si chiama Luciana delle Donne. Buongiorno, ben arrivata su Liberi Dentro. Ciao, grazie mille anche a voi per l'invito. È già ex manager nel mondo della finanza e fondatrice nel 2006 di Made in Carcere, laboratorio allestito presso il carcere di Lecce, dove le detenute confezionano prodotti utilizzando tessuti in disuso. È un modello, per così dire, anzi, proprio di economia rigenerativa. Come mai hai deciso, dopo 22 anni di dirigenza nel mondo delle banche, di dedicarti al mondo degli ultimi, invece, quello che per noi è il quartiere carcere? Beh, è una bella domanda e parecchi me la fanno perché si parla di coraggio spesso. Io lo definisco anche un po' incosciente questo coraggio, nel senso che io ho lasciato un ruolo importante, avevo creato la prima banca online in Italia 21 anni fa, quando nessuno ancora parlava di internet, e dopo 22 anni di successi incredibili nel mondo della finanza, desideravo un po' trasferire la fortuna, le competenze, il know-how che io avevo acquisito in questo contesto profit nel mondo scomodo, nel mondo che ha più bisogno di aiuto proprio per ricostruire, io la definisco così, la cassetta degli attrezzi. Abbiamo tutti bisogno di un riferimento, di un pensiero creativo per poter rivedere un po' come stare sul pianeta. E quindi, stanca di stare un po' nella gabbia dorata, ho scelto di tuffarmi tra la folla e capire come poter essere d'aiuto a queste situazioni di disagio, di emarginazione. Luciana, in carcere le detenute salariate che lavorano in questo laboratorio utilizzano tessuti che altri hanno abbandonato, contribuendo così, dicevamo, a una economia rigenerativa. Quindi, pensando in grande, è per questo che Made in Carcere potrebbe diventare un metodo, e per chi? Esattissimo, perché è semplicemente buon senso. Lavorare in situazioni scomode, non privilegiate senz'altro, utilizzando questa materia prima che altrimenti andrebbe al macero, è semplicemente buon senso perché si abbatte la recidiva oltre dell'80%. Da noi sono passate in questo percorso di vita centinaia e centinaia di donne e uomini in stato di detenzione, però attraverso il lavoro creativo, come dicevi tu, attraverso un metodo di un modello anche di economia rigenerativa, riparativa, trasformativa, si riesce a dare un senso alla vita delle persone, che poi va a effetto domino a tutte le altre persone collegate, che sono i familiari, che sono le persone che usano un oggetto nostro. E quindi è un inside out, un dentro e fuori che fa bene a tutti, alla natura, alla salute, al pianeta, alle persone. E mi piace, come lo hai definito, un metodo perché la forza di questo progetto è proprio quello di andare a creare dei prodotti mettendo insieme una sorta di patchwork, una sorta di accostamento cromatico dei tessuti ed è bellissimo perché è lì che una persona decide con responsabilità che fine far fare a quel cuscino, perché se fai degli accostamenti pessimi nessuno lo vorrà. Quindi è bello vedere queste persone all'opera che hanno un'identità, una dignità. Acquisiscono una consapevolezza di poter stare sul mercato in modo competitivo, ma una competizione sana che fa bene a tutti, fa bene a chi sta dentro, alla polizia penitenziaria, alle istituzioni, perché altrimenti un detenuto costa 60.000 euro alla comunità all'anno e sono costi importanti che invece attraverso il lavoro e la rieducazione, la ricostruzione della vita, viene fuori il bello, quel bello creativo, come dicevi appunto tu, è un metodo che lascia il segno tra le persone. Grazie, è importantissimo tutto quello che stai dicendo, che ci stai raccontando. Lanciamo un attimo la musica, poi ci riprendiamo tra pochissimo. Lancio un cantautore delle tue terre, che è Caparezza, e lancerei Eroe. A tra poco. Eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal videopoker, ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, macellai. Non ho salvata Nai da sceicco del Dubai e mi verrebbe da devolvere l'otto per mille a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Rieccoci, bentornati sulle note di Caparezza, sono un eroe. Luciana, i dati dell'amministrazione penitenziaria, ma anche i dati ISTAT recenti ci dicono che, come dicevi tu prima, una buona percentuale delle persone detenute che fanno percorsi risocializzanti e di lavoro mentre sono in carcere non ricadono nella cosiddetta recidiva. Tu che attraverso il carcere fai lavorare le detenute, mi sai dire quanto vale il tempo delle persone? È una interessante riflessione che purtroppo in pochi fanno. Per esempio, io faccio spesso questa domanda per sapere se qualcuno sa qual è la percentuale femminile nello scenario della detenzione generale. Le donne non commettono reati, le donne sono soltanto il 5% di tutta la comunità carceraria. Questo significa anche che bisognerebbe forse dare più ruoli di comando alle donne perché hanno una visione diversa. Ma al di là di questo commento, che è estremamente personale, la cosa interessante è abbattere la recidiva e noi abbiamo fatto delle verifiche. Mentre i dati generali, la statistica nazionale prevede che il lavoro all'interno del carcere abbatta la recidiva del 68%, a noi invece si abbatte la recidiva quasi del 100%, solo una persona è tornata in carcere, delle centinaia di persone che appunto dicevo ci hanno attraversato, perché è il lavoro che avvia sotto traccia una serie di valori intangibili che ti fanno cambiare un po' lo stato delle cose. Quindi le persone cambiano perché acquisiscono un concetto del bello in luoghi di degrado. Ti faccio vedere, per esempio, un patchwork, un cuscino fatto con tanti pezzi che loro decidono di comporre. E poi abbiamo qui una scala dei valori dove noi cerchiamo di far risalire un gradino di benessere a queste persone che hanno commesso un reato, ma non sono il reato. Quindi va ricostruita la loro vita, la loro cassetta degli attrezzi, proprio anche per spezzare quella catena del destino nei confronti dei figli, dei familiari. Per noi le donne che sono in stato di detenzione sono quasi tutte mamme. Lo stipendio che loro percepiscono può consentire di pagare l'università, di pagare il viaggio a Londra, la comunione, la festa dei 18 anni, cioè noi l'apparecchio ai denti, i libri, noi sappiamo che cosa comprano queste donne, cosa fanno di questi soldi le persone in stato di detenzione? Perché amano la propria famiglia in un modo incredibile. E la cosa interessante è che noi da poco anche possiamo promuovere i nostri prodotti negli spacci delle altre carceri e quindi sarebbe fantastico per noi poter contaminare in senso buono, contaminare gli altri carceri con le nostre produzioni. Quindi sarebbe tantissimo importante per noi perché ogni vendita di gadget ci consente poi di pagare lo stipendio a queste persone. Quindi è una catena del valore, aiutiamo ad aiutarci, ecco. Grazie Luciana, ripetici l'indirizzo della pagina su cui possiamo trovarvi. Noi siamo su Made in Carcere, ma anche mandando un'email info@madeincarcere.it potremmo allacciare dei progetti insieme, progetti comuni e noi attraverso la Social Academy che abbiamo creato aiutiamo tante sartorie sociali di periferia. Quindi se c'è qualcuno che ha bisogno di tessuti, siccome noi abbiamo creato una cittadella del tessile dove raccogliamo questi tessuti, possiamo donarli e quindi possiamo, se c'è qualcuno che ha bisogno di una piccola indipendenza per crearsi una sartoria e crearsi anche un'autonomia dal punto di vista economico, noi ci siamo e stiamo cercando di costruire un modello, come dicevi tu, un metodo che possa essere replicabile. Noi a questo proposito parliamo di BIL, benessere interno lordo, e non più di PIL. Grazie a Fondazione Con il Sud noi riusciamo a coordinare altre 6 cooperative, 65 detenuti in Campania, Basilicata, in Puglia e così cresciamo e ci replichiamo nel senso buono del termine. Grazie di tutto e ascoltatevi in coda l'ultimo pezzo di Caparezza, ti fa stare bene e ci rivediamo tra poco per i saluti finali. lutto di chi non ha niente a parte avere tutto. Delle sere chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, fichettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin. Sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Mariele Ventre che mi faccia star bene sempre. Con le mani sporche fai le macchine, ma la sole scopre come fa le streghe. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare. E ai microfoni di Liberi Dentro Duradio avete appena ascoltato la voce di Luciana Delle Donne, che è la fondatrice di Made in Carcere, questa associazione, questo laboratorio sartoriale che fa prodotti con scarti, prodotti di riuso. E hanno anche un sito bellissimo, quindi sostenetelo, andate a cercare, a trovare cosa fanno e cosa producono per poterlo anche acquistare, quindi sostenere un'economia rinnovabile, solidale anche. Noi vi chiediamo anche di sostenere il nostro progetto Liberi Dentro anche per l'estate attraverso il crowdfunding. Noi vogliamo continuare a fare il nostro programma e cercare di portare le nostre voci, le nostre facce, i nostri progetti che ancora non sono ripartiti in toto all'interno delle carceri. Quindi lo trovate su www.ideaginger.it, il progetto si chiama Eduradio ITV. E potete scriverci redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40136 Bologna per la posta. La rubrica oggi parliamo di spiritualità islamica e cultura araba, e a seguire seguirà Associazione Percorsi di Pace, ma tutto il weekend troverete anche il sabato il rinnovamento nello spirito, a seguire parliamo di buddismo, al termine abbiamo i dialoghi sulla cittadinanza con Valerio Onida e la domenica abbiamo il CPA di Bologna e a seguire la rubrica di cucina con il Fomal. Buona giornata a tutte e tutti, un ringraziamento a Pasquale Pitagnello per il montaggio di queste puntate e ad Antonella Cortese sempre qui con me in redazione di Radio. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.